Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Nei giorni scorsi i responsabili delle Caritas diocesane del Triveneto hanno incontrato l'assessore regionale ai servizi sociali Manuela Lanzarin. Le nuove povertà e le misure di prevenzione e sostegno che le istituzioni pubbliche, gli enti locali e volontariato riescono a mettere in campo sono stati questi gli argomenti al centro dell'incontro. Con le Caritas del Triveneto, adesso ha detto l'assessore Lanzarin, stiamo lavorando per impostare un percorso comune che prevede il mettere in rete gli sportelli e gli interventi e anche la costruzione di un sistema informativo regionale che coinvolga il pubblico e il privato sociale. La Regione Veneto è impegnata a rafforzare i servizi sociali territoriali, a svolgere il proprio ruolo di regia per un sistema unico di presa in carico delle situazioni di impoverimento e marginalità, un sistema nel quale gli sportelli e i centri di ascolto delle Caritas sono le prime antenne nel territorio e lo sappiamo bene. Ad esempio, per quanto riguarda la diocesi di Padova c'è questa rete ormai molto diffusa quasi tutto il territorio dei centri di ascolto vicariali delle povertà e delle risorse, un modello a rete che sta funzionando ed è molto efficace. Il modello appunto della Regione Veneto si sta strutturando grazie alla sperimentazione del SIA, il sostegno per l'inclusione attiva, che è previsto dal Ministero del Lavoro e del Welfare. L'anno scorso la sperimentazione del SIA ha messo in campo contributi fino a 400 euro per nucleo familiare e misure attive come interventi formativi, ricerca del lavoro, assistenza sanitaria. La prima fase della sperimentazione, spiega ancora l'assessore, ha evidenziato punti di forza e criticità di questo strumento, su cui la Regione ha già chiesto al Governo di intervenire con alcune modifiche. In ogni caso, perché questo strumento sia davvero efficace, è necessaria una governance condivisa tra pubblico e privato che valorizzi le alleanze territoriali tra i diversi servizi e il terzo settore, che investa nella formazione degli operatori. Le emergenze sono tante e in continuo aumento, dal proliferare delle ludopatie, l'aumento dei casi di genitori separati, dall'impoverimento medio delle famiglie monoparentali con più figli, fino alle vittime delle crisi bancarie aziendali, come ha confermato recentemente anche l'Osservatorio delle Caritas del Triveneto. Solo un raccordo veloce ed efficace tra tutti gli attori sociali in campo può costruire una rete di prevenzione e di presa in carico che impedisca alle persone di scivolare lungo la china della povertà verso la vera indigenza e l'esclusione sociale. Questa è un'azione che poi viene fatta soprattutto a livello locale o localissimo. Pensate ai comuni, agli interventi appunto dei servizi sociali che sono proprio in stretto contatto proprio con le Caritas parrocchiali o addirittura con la Caritas diocesana, e lì appunto c'è un reindirizzamento. C'è anche sul sito caritaspadova.it c'è una pagina apposita dedicata al sistema SIA di cui abbiamo fatto cenno, il sostegno per l'inclusione attiva, per averne maggiori informazioni. Abbiamo detto di nuove povertà, siamo ancora nella fase finale dell'inverno. Ormai fosse il freddo gelido certamente cessato, ma c'è ancora bisogno per diverse situazioni, in particolare per i senza dimora. Domenica scorsa, come sapete, è stata inaugurata Casa Elisabetta a Padova, ne avevamo parlato circa una ventina di giorni fa. Sul nostro sito bluradioveneto.it ritrovate l'intervista che approfondisce proprio questo argomento. Se ne è parlato anche sulla difesa del popolo. Caritas Padova, come sapete, è impegnata da anni nel supporto continuo di chi vive situazioni di grave marginalità. Sono tre i progetti concreti che cercano di dare sollievo e accompagnare diverse decine di persone che vivono in strada. C'è il progetto appartamenti, c'è l'emergenza freddo, che evidentemente è stagionale e sta per finire, poi c'è il progetto Buoni Pasto. C'è ancora la possibilità di donare, perché questo progetto ha raccolto attualmente attualmente il 42% del budget previsto. L'obiettivo è di 50.000 euro, ma siamo a poco più di 20.000 euro raccolti appunto per proseguire il sostegno a queste tre iniziative. L'emergenza freddo, certo, sta per finire, ma poi arriverà anche l'inverno con le prossime stagioni. I buoni pasto che ci sono ogni mese per italiani da consumarsi presso le cucine economiche popolari. I buoni valgono mensilmente, vengono consegnati in Caritas l'ultimo mercoledì del mese. Sono un segno tangibile di vicinanza a chi vive in strada, ma anche uno strumento che permette ai volontari di stabilire un primo contatto e diventano una base per instaurare una relazione che si può sviluppare nel tempo. Poi c'è il progetto appartamenti che guarda più lontano, al di là magari delle situazioni di emergenza. Il servizio di accoglienza che la Caritas offre ai cittadini senza dimora maschi è passato dall'accoglienza in dormitorio all'accoglienza in piccoli appartamenti con 4 persone insieme al massimo, con l'accompagnamento personalizzato. Gli appartamenti sono stati messi a disposizione da alcune parrocchie sensibili. Il progetto tenta di costruire un'alternativa all'assistenzialismo tradizionale, che rischia di creare una dipendenza tra la persona senza dimora e i servizi, quindi le mense piuttosto che i dormitori. L'alternativa si ispira al metodo Housing First, ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni. La casa è un bene primario che innesca per percorsi di risalita dalla grave marginalità, e questa modalità diminuisce i rischi delle dipendenze dai servizi assistenziali perché mette la persona in grado di essere protagonista di una vita più autonoma. Come sempre, altri dettagli, informazioni e iniziative su caritaspadova.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.